Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime maciste notizie dal mondo della letteratura e della politica. Bruno Vespa, presentando il premio Campiello al Teatro della Fenice di Venezia, ha commentato il vestito di Silvia Avallone, un décolleté che ha detto prego la telecamera di inquadrare questo spettacolo. E Michela Murgia, che ha vinto il premio con Accabadora, si è risentita, ha detto siamo al solito maschilismo, una scrittrice non viene giudicata per il suo testo ma per il suo corpo. Altre polemiche di genere politico riguardano invece le parlamentari. Una deputata ex PDL, ora finiana, Angela Napoli, ha detto non posso escludere che alcune mie colleghe per arrivare in Parlamento si siano prostituite. Ma è possibile essere belle senza che la bellezza offuschi altri talenti? O l'aspetto fisico è una sorta di doping per le donne più belle avranno sempre più successo delle altre? Veramente si può fare solo le veline in Italia? O anche la letteratura può essere un modo per arrivare al successo? In fondo al Campiello ormai vincono sempre le scrittrici. Ne parliamo oggi a Time Out, io sono Luca Mastrantonio, ci prendiamo un break per capire se l'emancipazione femminile avviene attraverso la bellezza del corpo, il talento letterario, se veramente siamo ancora al secondo sesso di Simone de Beauvoir. E noi, per non prenderci mai troppo sul serio, o forse per prendere sul serio anche le veline, abbiamo immaginato un palmarès di scrittrici showgirl di grande successo letterario. Premio Campiello a Elisa Alloro per Noi le ragazze di Silvio, a Liberti Editore. Motivazione, con uno stile che ricorda la grande lezione del realismo magico sudamericano nella versione senile del Marquez di Memorie delle mie puttane tristi. La Alloro mette a nudo lo zoo femminile del Premier e il Papi. Premio Calvino Opera Prima a Romina e Deborah per Nabirra en Calippo, ricordo di un'estate, Sky TG24 Editore. Disponibile anche con testo italiano a fronte. Motivazione, dopo Pasolini oltre Walter City, le borgate romane irrompono nell'immaginario collettivo con un libro di memorie scritto a quattro piedi. Premio Viareggio a Maria Gabriella Genisi per La circonferenza delle arance, Sonzogno Editore. Motivazione. Con l'invenzione dell'ispettore Lolita Lobosco, la pipa di Sherlock Holmes si accompagna agli occhiali cuoriformi della ninfa di Nabokov. Per gli amanti degli agrumi, nulla sarà come prima. Premio Elsa Morante a Simona Ventura per Crederci sempre, arrendersi mai, Mondadori Editore. Motivazione. Tra Arbasino e Defoe mette la casalinga di Voghera al centro dell'isola dei naufraghi. Da velina a conduttrice, venerdì si è emancipata. Bellezza, talento, è meglio essere scrittrici o veline? Ne parliamo con una scrittrice che è indubbiamente dotata di fascino e di talento letterario, Camilla Baresani, in linea con noi. Buongiorno. Ciao Luca. Lei preferisce essere apprezzata quando è in un salotto letterario per lo stile, l'eleganza, l'avvenenza e l'eloquio o per quello che ha scritto ed è in libreria? Ma tutte e due le cose, comunque non... Non mi dispiace essere ritenuta carina, chiaramente, sarei bugiarda se lo dicessi, però naturalmente siccome ogni persona cerca nella vita di costruire qualcosa che sia diverso dal suo aspetto fisico, non ogni persona, molte persone, io sono fra quelle, tutta la mia speranza, i miei desideri e la mia concentrazione è sull'essere apprezzata in quanto scrittrice e in quanto persona che lavora con le parole. Benissimo. Poi, però se arriva anche un complimento sull'estetica non mi dispiace. Non si indigna. Ascoltiamo assieme questo contributo incriminato di Bruno Vespa al Campiello. Prego inquadrare spettacolare décolleté della signorina. Allora, bene, complimenti. Ho messo istintivamente, così protettivamente, una mano sulla spalla di Silvia Avallone. Una mano sulla spalla, anche un contatto fisico, si è consumato un rapporto affettuoso non corrisposto. Camilla Baresani, lei come ha seguito questa premiazione catodica di Vespa? Allora, l'ho seguita e ho provato disagio, cioè mi sono sentita nei panni della Avallone. A me non piace essere toccata da estranei e perciò questo contatto fisico che ho visto, ho notato come Bruno Vespa toccava con insistenza il braccio, la pelle nuda della Avallone, a me ha dato un senso di ripugnanza e io se fossi stata in lei avrei, non so, fatto quel mezzo passo per scostarmi. In più l'idea di qualcuno che prega le telecamere di indagare nella tua scollatura, che era poi una scollatura normalissima. Di frugare quasi. Sì, frugare. Sì, per me io ho provato disagio per lei. Poi per carattere mio non avrei mai detto nulla, semplicemente avrei fatto un mezzo passo per glissare. Spostarmi. Sì, diciamo che in quel contesto dove si premia una persona per un romanzo, chiaramente è un complimento galante, così magari apprezzato, però o lo fai a tutte le signore presenti, le donne, le scrittrici presenti, oppure non puoi farlo alla Vallone e dimenticare la Murgia perché è antipatico. Cioè, certo. Quindi siccome siamo in un contesto di un premio letterario avrei evitato... questo contatto anche fisico, poi è questo appunto inquadratura. Sì, sgradevole. Tra l'altro io seguo ogni tanto Porta a Porta, non è che ci passo le notti, ma insomma, mi è capitato di guardarlo e ho notato già più volte con raccapriccio che Vespa, appena c'è una donna con le spalle scoperte, ci appoggia le mani o le braccia e comincia e si sofferma a lungo, palpeggiando, stringendo le mani così. A Roma si dice mollicone, no? Ecco, magari ci sono donne che io insomma comunque non mi darebbe un enorme fastidio, non sono così. Ecco, ricordo alcuni suoi titoli, Il plagio e Un'estate fa, ma anche un tic scritto peraltro con Mannheimer, che diciamo sì. Un feticcio statistico alfanumerico di Vespa e tipi italiani contemporanei. Vespa, quindi a che tipo italiano contemporaneo appartiene? Gli ultimi maschi rimasti. Gli ultimi maschi rimasti. No, in tutto questo, cioè, io non avrei mai fatto una polemica come la Murgia, che pure apprezzo, però insomma non mi piace questa insistenza sul deprecare il conduttore. Il conduttore è quel che certo. Poi in tuo, nella privacy delle tue considerazioni farle, ma è diventata una moda attaccare il conduttore ed è una moda che poi frutta in termini di copie vendute, perché si fanno pagine. Il nome che mi sta venendo in mente, che lei telepaticamente mi comunica, Barzani, è Scuratti, no? Che è sempre con Vespa. Esatto. Però forse Marzullo è meglio di Vespa, insomma si nota meno ai premi letterari, che dice? Dà più spazio agli autori. Mi ricordo una faccia terribile fatta da un'altra scrittrice italiana, ed era uno strega, all'intervistatore, che non riesco a ricordare se era... La Parrella? Vespa, esatto. Lei era la Parrella. Una smorfia spaventosa di disgusto e di ribrezzo, e non mi ricordo se era Vespa o era Marzullo l'incriminato. Cioè, io penso che quando uno accetta delle convenzioni di una società, si tratta di un premio, si tratta di soldi, di vendite di libri, a un certo punto sono delle minime cose, questi sono dei dettagli che delle pagliuzze. Sì, cioè abbiamo un problema grave, vero, di educazione dei maschi alla non violenza. I maschi ammazzano le donne, continuano ad ammazzare le donne, non sono pronti a nulla, né alla separazione, né al fatto di non avere più ruolo. Non parliamo solo di quelli musulmani, stiamo parlando anche di quelli italiani. Di tipi italiani contemporanei o forse, ai noi, molto molto retro. E ringraziamo Camilla Barzani di averci ricordato quali sono le travi. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Venise, 12 mai 1834. Non, mon enfant chéri, ces trois lettres ne sont pas le dernier serment de main de l'amante qui te quitte. C'est l'embrassement du frère qui te reste. No, mio caro, queste tre lettere non sono l'ultima stretta di mano dell'amante che ti lascia, è l'abbraccio del fratello che ti resta. Così George Sand, in una lettera ad Alfredo Musset, appunto salutava l'amante focoso, che adesso era un amico, quasi un fratello, e abbiamo sentito la voce suadente di Céline Dion, che ha recitato questa lettera in musica. E perché parliamo di George Sand, questa scrittrice parigina rivoluzionaria, femminista ante litteram, dalla vita scandalosa, dalla vita amorosa scandalosa? Perché a lei ha dedicato un romanzo, un esordio felice, uscito per i tipi di Marsiglio, Anna Canacchis, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno, come state? Bene, e quindi perché ha scelto questo personaggio così, insomma, scandaloso, così sopra le righe, che forse avrebbe messo Vespa, che appunto fa gli apprezzamenti sui décolleté durante le premiazioni dei premi letterari, l'avrebbe messo al suo posto, vicino alle poltrone Frau? L'ho scelto perché sono sempre stata una sandofila, per cui un amante di George Sand dai tempi del liceo, e mi colpiva questa donna di rottura, questa femminista ai suoi tempi, nella lontana metà dell'Ottocento, così particolare, così dirompente, un idealista, una progressista, una femmina in gamba, insomma una uoma. Ricordo il titolo, Sei così mia quando dormi, appunto, quindi sì. Una uoma, una categoria forse che serve molto oggi, che le donne insomma hanno tirato fuori un carattere che così forse semplificatamente a volte si attribuisce agli uomini. Diciamo che ci piacerebbe, io sono una donna dell'età della Sand, una quarantottenne che osserva e si guarda intorno, insomma qualche volta ecco le donne mi deludono un po', soprattutto in questo momento. Ecco, siamo partiti anche da Vespa, ma abbiamo affrontato anche Angela Napoli, la deputata del PDL, adesso Finiana, che ha detto in Parlamento sono arrivate delle donne, non escludo che si siano anche prostituite. Lei che ha avuto una fugace avventura politica, però importante come sottosegretaria, lei con l'UDR... Dirigente nazionale, sottosegretario per l'UDR di Francesco Cossiga. Di Cossiga. Come commenta insomma questa uscita dell'Angela Napoli e questo chiacchiericcio sulle ministre, sulle parlamentari italiane oggi? Sono uomini? Guardi, io credo che le donne dovrebbero essere più amiche delle donne, e quindi evitare di generalizzare con delle battute poco felici. Gettare fango, insomma. Evitare di generalizzare con battute poco felici. Ci può essere anche la persona che fa carriera in un certo modo, come al contrario donne che si occupano di politica capaci e che fanno il loro mestiere, ma le donne dovrebbero cercare di essere forse un po' più amiche delle altre donne. Lei dal 77 ad oggi, quindi Miss Italia e adesso romanziera, Vespa la inviterà come autrice, visto che insomma viene spesso invitata come attrice, come showgirl? La inviterà? Siamo sicuri? Perché adesso dopo questo incidente con la Murgia forse Vespa ha un po' di problemi con le romanziere. Parla di Bruno Vespa. Sì, Bruno Vespa. Vespa è una persona che io stimo e di solito mi invita spesso a porta, per cui mi ha già invitato col libro. Ho avuto modo di raccontare del mio piccolo volume nel salotto di Bruno Vespa. Però non ci sono stati scandali femministi come quelli della Murgia che l'hanno portato anche alle cronache nazionali. Noi ringraziamo... ma quelle sono... Credo che siano battute. No, scandali femministi. Mi sembra un po' tanto. Sono forse battute un po', come dire, da cavaliere antico. Ok, ringraziamo Anna Canakis di essere stata con noi in veste di romanziera e uoma. Grazie. Grazie a voi. Time out. Lei è veramente un pazzo. Come si permette di fare questo affronto a mio marito? Mio marito, il ministro, il cardinale, questo... Ma scusi tanto, ma lei chi è? Chi sono io? Io sono la moglie del ministro. E facci vedere il tuo ministero! Roberto Benigni in una classica performance anatomica sul corpo delle donne, come con la Raffaella Carrà. In Johnny Stecchino scherzava, ironizzava sulla moglie del ministro. Forse oggi bisognerebbe capovolgerla questa battuta, perché abbiamo molte donne ministro e forse bisognerebbe chiedere ai loro mariti di farci vedere il ministero. Lo chiediamo a Maria Latella, direttrice di A, che ha raccontato con un'intervista a quattro, alla Meloni, alla Prestigiacomo, alla Gelmini e alla Carfagna, le nuove ministre. Buongiorno direttrice. Buongiorno. Si sono capovolti i ruoli, appunto, le donne hanno preso il potere, non sono più il secondo sesso. Ma una settimana ogni tre Newsweek mette in copertina le donne col solito titolo, sempre più o meno lo stesso, no? Le donne al potere. L'ultima copertina è dedicata alle donne che in Cina sono sempre più determinanti nelle gestioni di decisioni importanti a livello economico, se non ancora a livello politico. Le donne sono sicuramente determinanti in alcuni settori del consumo, e si sa che chi determina i consumi guida anche, diventa opinion leader per molti altri settori. Sono determinanti nei consumi paraculturali, cinema. In questo momento le donne hanno ruoli fondamentali. L'Italia è arrivata molto tardi, in realtà la politica ha semplicemente preso atto del fatto che le donne in molti casi guadagnano più degli uomini, in molti casi hanno una formazione culturale più sofisticata di quella degli uomini, in molti casi, come dire, partecipano direttamente alla vita politica, si occupano di politica più degli uomini. Allora, che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto prendere atto che il mondo era cambiato mentre loro continuavano a vederlo con gli occhiali di 30 anni fa, e questo ha finalmente imposto un certo numero di ministri al governo e un certo numero di donne parlamentari, presidenti di regione, eccetera. C'è un fatto: quando le donne prendono posizione da un punto di vista serio, sì, fanno opinione. Ecco, questo il caso delle quattro ministre che hanno dato al nostro Arturo Celletti sua un'intervista che spaziava dal caso Sacchinè, certo, la donna iraniana a rischio di lapidazione, ai giudizi sul futuro del governo Berlusconi, fino a commenti sul caso che ha visto coinvolto il presidente della Camera e la famiglia della sua compagna. Ebbene, questa intervista ha suscitato un grande rumore, una grande polemica, e io penso anche perché a parlare sono state quattro donne ministre. Assieme, questa è stata anche la grande novità, insomma, che hanno fatto quadrato. In genere le donne spesso si dividono, quindi ringraziamo la direttrice di A, Maria Latella, di averci spiegato e approfondito questa nuova macro tendenza, appunto, dell'emisfero occidentale. Grazie, direttrice. Grazie a voi. Ma l'amore no, di Arisa, canzone di successo, Sanremo 2010, è tornata dopo che nel 2009 aveva, insomma, trionfato come novità con Sincerità, che vinse anche il premio Mia Martini della critica. Ecco, Arisa si mette a questo look anni 20, questi occhiali pesanti, una montatura decisamente poco sexy, eppure è di successo, quindi forse un esempio di donna che non deve, attraverso la bellezza, l'avvenenza, fare parlare di sé, può essere semplicemente brava. E ne parliamo con una giornalista scrittrice e autrice di Male Donne No, come si vive nel paese più maschilista d'Europa, Feltrinelli. Buongiorno Caterina Soffici. Buongiorno. Ecco, ma questa regressione maschilista ha forse in Vespa, che commenta il décolleté della Murgia, una piccola bandierina, insomma, ci ha fatto fare un piccolo salto indietro nel bon ton catodico, Vespa con la Murgia? Secondo me non è un passo indietro, è un continuare a camminare sulla stessa strada su cui secondo me la televisione italiana cammina da parecchi anni. Negli ultimi anni non mi sembra che questa sia una manifestazione assolutamente unica. Basta accendere la televisione, basta guardare quello che passa. E forse il décolleté della Vallone era una delle cose meno appariscenti. Trovo agghiacciante che Vespa abbia fatto questa uscita, ma insomma mi sembra ormai abbastanza banale dirlo. Quello che trovo forse più agghiacciante è che ci siano state poche reazioni su questa cosa, almeno meno di quelle che ci sarebbe dovuto aspettare. Per esempio anche politiche, forse, visto che abbiamo tante ministre, tante donne. Questo intendo io, cioè è dovuta intervenire la Michela Murgia, che poi è stata tirata in ballo qualcuno anche in maniera assolutamente scomposta e sgangherata. Mi riferisco a una cosa che ha scritto Vittorio Sgarbi, che sì, dice: no, ma bisogna comunque riconoscere che ci sono due categorie, la bellezza e la bruttezza, quindi se uno è brutto non può pretendere anche l'intelligenza e la stupidità, si potrebbe aggiungere, no? Scrivendo bravo, infatti questa era proprio l'altra parte del ragionamento, perché se stiamo parlando siccome il premio, l'apprezzamento di Vespa era su un palco dove sarebbe dovuto comunque celebrare la letteratura, certo, si stava parlando di una scrittrice, quindi il lato estetico sinceramente poteva essere assolutamente di contorno secondario, assente del tutto, certo. Poi io non ho niente contro i concorsi di bellezza, le miss, le cose, ma quello lì è un altro ambito, cioè come se a Miss Italia si parlasse di letteratura, che noia, vero? Appunto, che noia, forse sì, però bisogna sempre cercare di tenere gli ambiti distinti, separati. No? Cioè, questa è la cosa. Se si parla di tette, parliamo di tette, ben vengano, cioè, se no poi uno fa la figura del bacchettone e pensa che invece no, le scollature non ci devono essere. Ben vengano le scollature, per me ci possono essere anche gli spettacoli, di anche gli spogliarelli, non è quello, è che non si può sempre fare di tutto un calderone. E infatti secondo me ha fatto benissimo la Murgia. Io mi metterei sempre nei panni di un uomo a cui gli dicono: ma guarda che bel pacco che hai, no? Ecco, quindi questa è magari cotonato. Ringraziamo Caterina Soffici, autrice di Male Donne No, di essere stata con noi a Time Out. Io vi ringrazio voi per questo intervento. E andiamo a concludere il nostro Time Out. Tiriamo le fila: donne, veline, ministre, scrittrici, arrivare al potere. Siamo arrivati al palazzo, hanno conquistato il palazzo, come ci ha spiegato Emilia Latella, anche per una capacità di trendsetter, di opinion makers. Ma forse le donne dovrebbero farsi meno la guerra tra di loro e difendere la loro specificità, il loro talento, e non venire giudicate solo per il corpo. Io personalmente mi sono fatto l'opinione che la vera notizia è che ormai al campiello vengono sempre le scrittrici, quindi per avere successo forse si possono fare le veline, ma anche le romanziere. Il nostro Time Out è finito. Io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi do appuntamento con Time Out a sabato prossimo alle 9:30.